ringrazio sentitamente la dottoressa Trevisan per questa introduzione e soprattutto per aver accolto la proposta di Italia Nostra di presentare in questa sede la tesi di laurea del dottor Dario Massimo. La Biblioteca Provinciale Italiana non è nuova alla presentazione di tesi di laurea di giovani studiosi, di giovani laureati. Il dottor Dario Massimo è uno splendido 60enne, per dirla con Nanni Moretti, quindi diciamo non rientra nella categoria normale dei giovani laureati, ma è per me un motivo di particolare soddisfazione poterlo presentare questa sera, perché la sua è la prima tesi che abbiamo voluto inserire in una per il momento solo ipotetica o futura collana di tesi di laurea che abbiamo intitolato Le tesi d'Italia Nostra. Con questo nome, con questo titolo, vogliamo proporre non soltanto degli studi, appunto tesi di laurea, ma anche tesi, intese nel senso di ipotesi di lavoro, di opinioni, di mattoni che l'associazione mette insieme a tutti coloro che hanno la buona volontà, a tutti gli uomini di buona volontà, per costruire una visione plausibile di tutela e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Italia Nostra questo fa, Italia Nostra è un'associazione per la tutela del patrimonio storico, artistico e naturale della nazione, ha sedi in tutta Italia, una sede anche a Bolzano, e ci siamo resi conto che è molto importante, accanto al lavoro di lotta, diciamo così, o di denuncia delle cose che secondo noi non vanno nella gestione, nella tutela dei beni culturali e ambientali, anche contribuire con idee, con progetti, con prospettive in questo campo. Non che l'attività di denuncia o l'attività di lotta per la tutela dei beni culturali e ambientali non contenga implicitamente un'idea diversa di quello che può essere valorizzare o tutelare o salvaguardare questi beni, però non c'è dubbio che esiste anche da parte della società, da parte della città e della comunità della nostra provincia un vivo interesse per questi argomenti e un vivo interesse che mi pare dimostrato anche dal folto pubblico che abbiamo stasera. Il secondo motivo di grande soddisfazione, e qui chiudo, per cui presento Dario Massimo, quindi è proprio questo, cioè l'idea che un bene edilizio di grande importanza, di grande prestigio, come la fortezza asburgica di Fortezza, non sia solo appunto un bene da tutelare, ma anche un bene per il quale servano delle istruzioni per l'uso, no? Cioè, che cosa facciamo di questa gigantesca struttura, che cosa vogliamo che diventi, che cosa vogliamo che sia. È collocato oltretutto in un punto, ce lo possiamo confessare, non ottimale, insomma, per Fortezza abbiamo tutti molta, molta simpatia e molto affetto, ma non c'è dubbio che ha meno, come località, può avere meno appeal di altre località più baciate dalla fortuna dal punto di vista paesaggistico, ambientale. Non di meno Fortezza ha molte cose da esibire. C'è accanto al forte anche la strada romana di Fortezza e mille altre cose che meritano di essere valorizzate, ma quello che a noi importa è capire quali sono le istruzioni per l'uso. Ecco, io lascio volentieri la parola a Dario Massimo e vi ringrazio della vostra presenza. Io non userò il microfono perché, come potete capire subito, la mia voce allenata. Sì, beh, ma si sente lo stesso dentro, sono convintissimo. Di solito mi sentivano a un chilometro di distanza, quindi... Beh, comunque, lo userò, visto che... Buonasera, mi chiamo Dario Massimo, come avete detto, vengo dal paese, proprio il paese. Un paese brutto, un paese che ha subito alcuni tracolli storici. Io ricordo che negli anni 70... c'erano dei spedizionieri che non entravano nemmeno in un ristorante se non avevano 500 rose bianche sui tavoli. Erano i bestiamari famosi che a Fortezza facevano affari d'oro, perché lì era il punto in cui Fortezza divideva il nord Europa dal Mediterraneo. Il punto in cui si divide esattamente il nord Europa dal Mediterraneo è esattamente la Fortezza. Lo scrivo in un saggio che verrà pubblicato dall'Università di Bolzano nelle prossime settimane, che Fortezza è quel punto, la fortezza sta in quel punto dove 500 metri a sud maturano i cachi e matura la vite, e 500 metri a nord non matura più. È proprio un meteotipo molto strano, una discriminante meteorologica. Pensate che in quel tunnel, se qualcuno, e penso tutti voi, hanno passato la statale, passando sotto quel pezzettino di tunnel che è stato realizzato nel 65, quando l'autostrada ha costretto la strada statale a spostarsi, in quel tunnel tante volte chi come me è nato a Fortezza e ci vive ancora, chi come il mio sindaco, che bella sorpresa è qui presente, il nostro neo sindaco, chi fosse viaggiando con la guida a destra come la mia professoressa di quando avevo 14 anni, che saluto, la professoressa Ferrari, che saluto con commozione, e tante altre facce che mi sembra di conoscere, ma si diventa vecchi e cambiamo. Dico, chi conosce quel pezzettino di tunnel sa che entrando da sud alle volte piove, uscendo 50 metri dopo nevica. Tanto per dire. È lì che sorge la nostra fortezza. Perché sorge questo po' di roba che ho avuto l'onore di poter fotografare con l'elicottero militare e che quindi non presenta i fili della corrente che disturbano sempre? Eccola qua. Questo è il tratto visibile. Ce n'è altrettanto sottoterra, pensiamo, no? Questa è la vecchia strada militare. Ve la presento così un po'. Questa è la vecchia strada militare che si inerpica su e arriva a Forte Alto. Qui sotto passa il famoso tunnel da 450 gradini e questa è la nostra cittadella. Una cittadella costruita secondo i dettami del neoclassicismo, che si ispirava all'antica Grecia, si ispirava alla romanità, in tanti e tanti e tanti aspetti. Un accenno solo alla mia tesi. Io mi sono laureato nel 76 e poi a 56-57 anni ho voluto rimettermi alla prova e vedere che cosa era cambiato dopo aver fatto il giornalista, il ferroviere, il corrispondente di guerra dall'Africa. Ci ho passato quasi 10 anni in Africa tra una cosa e l'altra, 5 anni fissi in Eritrea, in Etiopia, in Somalia. E insomma sì, ho visto un pezzetto di mondo e ho voluto rimettermi alla prova per vedere un po' se il cervello funzionava ancora. Quando i capelli cominciano a diventare grigi si dice che si impiantino nei neuroni e nelle sinapsi e ci diano fastidio. Forse non è vero, perché mi sono confrontato comunque con dei ventenni. È stata una bella soddisfazione, devo dire. È stata una bella soddisfazione perché ho parlato anche di questa struttura che amo molto. Io nel 1976, giovane tenentino, sono stato il comandante per brevi periodi di questa, e quindi sapendo che ai tempi del militare c'era molto molto tempo da trascorrere senza fare niente, me la sono visitata allora, molto prima. E poi ci ho fatto la prima visita guidata in assoluto, un giorno che un giornalista burlone aveva scritto sull'Alto Adige che con Ferragosto si poteva visitare la fortezza. È arrivata gente anche da Roma, e era la festa del CAI, una festa all'aperto, è arrivata gente anche da Roma che pretendeva visite guidate alla fortezza. E lì mi sono improvvisato cicerone per la prima volta. Ma comunque, queste sono tutte cose personali che riguardano il mio rapporto con questa struttura. Questa struttura è enorme. Per chi non la conosce, per chi non l'ha ancora visitata, io vi invito a visitarla, perché è un unicum nel panorama italiano, posso dirlo tranquillamente. Questa fortezza è stata concepita come una cittadella romana. E per quello è nata a Fortezza un'associazione culturale che si chiama Oppidum, che significa cittadella in latino. Ma comunque, perché nasce un forte qui? Nasce un forte qui per colpa, potremmo dirlo per merito, visto adesso, della Rivoluzione Francese. Nella Rivoluzione Francese c'è un piccolissimo particolare che molti si dimenticano, che è quello che il triumvirato Richelieu, Marat e Danton confermano quella che è una legge emanata ancora da Luigi XIV. E Luigi XIV è quello che in pratica crea in Francia il servizio militare obbligatorio. Siamo nel 1600 circa, e da quel momento la Francia diviene automaticamente la più grossa potenza bellica che esista in Europa, perché la Francia è il paese più popoloso dell'Europa, ha 20 milioni di abitanti, contro i 13 ad esempio che avrà tutto l'impero austro-ungarico 50 anni dopo la costruzione del forte. Quindi facciamo un po' i paragoni. Bene, questo fa sì che Napoleone Bonaparte diventi quel grande generale che è, perché ha sempre a disposizione un esercito di 850.000 soldati, e questo fa sì che Napoleone attacchi gli stati di Deutschsprachigen Länder, si direbbe in tedesco, cioè quelli che più o meno parlavano tedesco, che erano 38-39, tra l'Olanda e Liechtenstein, eccetera, gli stati reali che c'erano allora, e che vinca, sfondi la famosa linea del Reno, che è quella che divide i francofoni, più o meno i francofoni, dai germanofoni, e sfondi in pianura padana. E questo che cosa provoca? Provoca angoscia e turbamento negli stati del centro Europa, che danno una grossa batosta a Napoleone nel 1813 a Lipsia, e si riuniscono due anni dopo nel famoso Congresso di Vienna. E tutto nasce da lì. Congresso di Vienna, abbiamo due figure, Talleyrand e Metternich. Metternich lo conosciamo tutti, no? È quello che ha detto che l'Italia è una pura espressione geografica. Ce lo ricordiamo per quello, perché all'elementare l'abbiamo imparato tutti. Aveva tanto ragione, mamma mia. Però è stato condannato dalla storia per questo, e io sono per l'unità nazionale, ricordatelo. Comunque aveva ragione. E perché l'Italia è una nazione trasversale, non è orizzontale, purtroppo, anche come paralleli, e così saltano fuori delle cose un po' strane. Ma lasciamo perdere. Succede che dopo la battaglia di Lipsia gli stati germanofoni si incontrino nel congresso di Vienna, che Talleyrand, rappresentando la Francia, dia l'avvio a quella che si chiama la restaurazione, e che prometta de facto di tenere il suo imperatore entro i confini, la Francia starà buona, brava brava, non attaccherà mai più nessuno, e Metternich dall'altra parte, fino al 1848, quando lui sarà al potere come grande pensatore, è il Cavour, diciamo così, dell'impero austro-ungarico, dirà la Francia sarà sempre e comunque un pericolo, lo scrive, lo dice. Congresso di Vienna, nasce il cosiddetto Deutscher Bund, i 38 stati fanno casa comune, e per non cambiare le proprie leggi, che sarebbero state mal accolte tra l'altro anche dalla popolazione, decidono di realizzare una serie di fortezze esattamente sulla linea del Reno, dove il buon Napoleone aveva sempre sfondato, quindi si parte da Ulm, Mainz, giù fino alla Svizzera, e lungo il lago di Garda, e abbiamo il famoso quadrilatero Peschiera, Legnago, Mantova e Verona. Bene, questa è la premessa delle nostre fortezze. Le fortezze vengono costruite dalla cosiddetta Neue Deutsche Schule, o Neue Österreichische Schule, che sono è una doppia addizione per una scuola militare di ingegneria e architettura che si contrapponeva a quella di Vauban e di Montalembert in Francia. I francesi costruivano le fortezze, erano un po' precedenti alla scuola tedesca, che nasce come alternativa, e i francesi costruivano le fortezze a stella. Perché? Perché allora le compagnie, i battaglioni, eccetera, marciavano compatti come la legione romana, e trovandosi davanti a una punta, automaticamente si dividevano e erano più facilmente battibili. La nuova scuola tedesca sviluppa determinate cose, che sono, ad esempio, vi faccio un esempio, questa, la vedete qui a sud, ma ce n'è anche una a nord, si chiama caponiera. La caponiera è una struttura semicircolare, tipo un erker, bovindo, e dove ci sono 20, 30, 40 feritoie, e dove dentro c'erano tre soldati, che venivano riforniti di fucili ad avancarica, naturalmente stiamo parlando di quel periodo, da quattro serventi ai pezzi, potremmo dire, tra virgolette, che stavano fuori dalla caponiera e che glieli passavano attraverso una grande feritoia, e questi correvano da una feritoia all'altra, facendo credere all'avversario, innanzitutto coprendo un'angolazione di 220-230 gradi, quindi estremamente grande, e facendo credere anche all'avversario di essere in 50-60 dentro nella caponiera. Cosa vi ricorda? Bene, la caponiera ricorda un po' quella che è, e guardate, è come la ruota di pietra, per quello che servono poi le torrette dei carri armati, ad esempio, che funzionano secondo lo stesso principio, o le torrette dei sommergibili, eccetera, eccetera. Quindi la nuova scuola tedesca opera delle novità architettoniche, prendere le fortezze più sicure, imprendibili, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Abbiamo detto dal punto di vista architettonico, la fortezza è questa. Guardate, è la Vulgata, coloro che o i soldati, perché fino lo dico con orgoglio, fino all'arrivo del mio libro, lì dentro si parlava di casa dell'imperatore, di bagno turco, di un sacco di cose che venivano riportate dai militari. I militari, nel loro ozio, tra virgolette naturalmente, con tutto rispetto, sono stato anch'io e per molto tempo, e sono orgoglioso di questo, ma nei loro ozi inventavano determinate cose. E chiaramente non è che il soldatino di truppa o il maresciallo, divenuto maresciallo, ma ex sergente maggiore che veniva dalla Calabria, dalla Spromonte, ne sapesse di storia e quindi identificasse esattamente i luoghi per quello che potevano essere. È un po' una sorta di archeologia, no? Questo avviene tramite degli studi. Bene, lì dentro, ripeto, si parlava di queste stupidaggini. La fortezza in realtà è solo quella bassa, e quindi la Vulgata, esattamente il contrario di quello che la Vulgata dice, che dice, scusate, che c'è un forte basso, un forte medio. Forte basso è questo, forte medio è questo, su questo spero nel roccioso, e forte alto questo, non è affatto vero. La fortezza viene costruita in stile stile neoclassico, come era di moda allora. Ricordiamoci, dopo il barocco, fiorellini, rococò, ancora più fiorellini, ve la faccio molto prosaica, trac, di colpo si cade nel neoclassico. È un po' come le gonne delle donne, lo dico sempre, no? Una volta corte corte, quasi ascellari, una volta lunghe lunghe fino ai piedi, una volta a mezza gamba e via. La stessa cosa avviene allora con gli stili architettonici. Allora noi abbiamo la cittadella, che è questa, e questa è l'acropoli, come lo è ad Atene, ad esempio. E che cos'è l'acropoli? La chiesa è sempre stata, o le chiese sono sempre state quelle che hanno saputo meglio interpretare il ruolo di casseforti. E fin dall'antichità, fin 2000 anni prima di Cristo, i preti avevano già un grande potere, e così nel Partenone venivano portate le ricchezze, nell'Acropoli venivano portate le ricchezze. Non è che il Partenone sia sorto lì perché si era più vicini agli dèi, no, è sorto lì perché si era più sicuri, perché l'Acropoli era praticamente imprendibile. Questo è il grande gioco psicologico e tattico delle Acropoli. E la stessa cosa accade qui, o perlomeno questa è l'interpretazione che si dà. Allora noi abbiamo la nostra fortezza, che è divisa dal Decumano e dal Cardo, che sono queste due grandi strade che si incrociano nel mezzo, così come tutte le grandi città che sono divise in quartieri, da quarto. Abbiamo l'Acropoli, che viene raggiunta in caso di necessità tramite una faticosa salita, un tunnel sotterraneo che corre esattamente qui. Lo si vede anche un po', e che quindi costituisce l'estrema via di fuga, dove il resto della guarnigione, ormai decimata da un eventuale nemico, avrebbe potuto arroccarsi e resistere per mesi e mesi e mesi. Ecco, questa è un po' la presentazione di quella che è la nostra fortezza. Vi faccio vedere che cos'era. Questa è una novità assoluta che è nella mia nuova edizione del libro. Questa è un'antica cartina catastale del 1858, prima, subito dopo che la fortezza era stata costruita, ma molto prima che venisse costruita la ferrovia. Qui fortezza, paese, non esiste. Vedete cosa c'è qui? Reifahof, e è esattamente qui, c'è oggi la stazione ferroviaria. Qui verrà scavato il tunnel di base del Brennero. Questi sono, in verde che vedete, sono prati, quelli in marrone sono campi coltivati. Vedete che esiste Reifahof, il Plauspichl, come lo chiamiamo noi, che è la Villa Wild, si dice. Qui abbiamo la strada romana, qui, scusate, mi tolgo perché altrimenti, vedete, qui c'è la fortezza bassa, il tunnel di collegamento, la fortezza alta, e qui, dove oggi c'è il lago artificiale, i prati. Bene, questa era la fortezza, e questo era quello che facevano i militari allora, che hanno fatto i militari per tanto tempo lì dentro. È una vecchia foto trovata così per caso. Questa è la fortezza d'inverno. Non vorrei tediarvi con le immagini. Questo è il plastico che hanno realizzato degli amici architetti e che mi hanno concesso di pubblicare. Questo è il plastico di come si presenti la fortezza. Vedete, una cosa estremamente monumentale, grandissima. Calcolate 65.000 metri quadrati coperti. Immaginate che cosa siano. Quando si parla di grandezze di questo genere, di questo ordine, si parla del Louvre, quando lo si paragona al museo. Il Louvre c'ha 70.000 metri quadri. Si dice che per vedere le sale del Louvre, senza soffermarsi sulle opere d'arte, ci si mette all'incirca 8 giorni. Quindi immaginate un po' cosa significa visitare tutta la fortezza, vederla tutta. Ci vogliono 7 giorni, sono 5.000 metri quadri di meno, e 5.000 metri quadri si vedono bene in 2-3 orette, no? Volendo. Bene, questa è una lacrimuccia, questo era stato realizzato da mio fratello, che è morto, poverino, prematuramente, mio fratello più giovane, era un ingegnere, e per me aveva realizzato, avevamo studiato assieme, per il mio libro sul forte, i vari settori. Il forte di fortezza si articola, il forte, quando parlo del forte parlo sempre, allora, chiaro, dell'opera di base, di valle, non dell'acropoli su. Forte alto non esiste, esiste l'acropoli, non forte alto. Ma vabbè, teniamo pure anche alle volte la dizione della vulgata del popolo, ma la cittadella, vedete, è realizzata in maniera da essere divisa in 4 settori. Questo è un settore, questo è il secondo, questo è il terzo, e è quello che allora dava sulla Forra dell'Isarco, oggi dà sul lago, che era il più recondito, il più lontano da un'eventuale zona di attacco. Qui c'è la montagna di Spinga, e quindi difficilmente, è una montagna franosa, difficilmente un nemico avrebbe potuto attaccare, e quindi qui è stata concentrata la logistica. Vedete, questa è più o meno quello che è la provincia oggi ha fatto diventare il bistrò della fortezza, dove si può mangiare. Questa è la grande caserma dove stavano i soldati. Qui ci sono gli uffici, eccetera, eccetera, eccetera. Questa zona qui è stata quella che è stata scassata per permettere qui sotto il passaggio della strada statale. Vedete la complessità di quest'opera. 4 parti, i 4 quartieri romani. E 13 sottoparti che funzionano, e anche questa è un'idea modernissima, che funzionano come funzionerebbe oggi le porte tagliafuoco, diciamo così, in un grattacielo. Se succede un incendio, se abbiamo un incendio in un grattacielo di 60 piani, al piano numero 30, prendiamo non a caso, cosa succede? Succede che si possono chiudere delle porte, far defluire il personale o gli abitanti che abitano nei 30 piani sopra, e fa affluire contemporaneamente, senza che questi si scontrino con i fuggitivi, far affluire i pompieri. Funziona un po' così. Così le varie parti in blu della fortezza sono 13 parti che possono essere chiuse, potevano, prima che si portassero via anche le porte, che potevano essere chiuse e quindi blindate, e permettevano un contrattacco da parte dei soldati. La fortezza imprendibile, insomma, è per i tempi di allora veramente un'opera mega, mega galattica. E calcolate che sono solo 2 parti delle 11 che dovevano essere costruite, perché ne era prevista una a Spinga collegata sotterraneamente con questa, ne era prevista una a Padisopra collegata sotterraneamente con questa, ne era prevista una a Rio di Pusteria, una a Naz, una a Charles, una a Elvas, sull'altipiano. Dovevano essere, il progetto generale riguarda 11 complessi collegati tra di loro, e questi avrebbero bloccato, perché la funzione del forte di fortezza, che appartiene a, come 23esimo nato, a quella serie di 22 fortezze che sono state costruite da Ulm giù lungo la linea del Reno e sotto nel quadrilatero, la funzione voluta dall'arciduca Giovanni era quella di bloccare la strada del Brennero, è la più, forse una delle più antiche vie d'Europa di collegamento. Si sa che i Bernstein Händler, i commercianti d'ambra, la percorrevano a piedi da nord al sud e andavano a vendere ai Fenici, agli Etruschi e successivamente ai Romani l'ambra, o ai Greci l'ambra, che serviva, ricordiamocelo, io non sono un archeologo, ma l'archeologo mi darà, e saluto anche il dottor Davi, che caramente ci vediamo poco ultimamente. È la sorpresa del microfono. Sembra un uovo di Pasqua. Comunque, dicevo, è come 23esima nata di queste 22 fortezze costruite dal Deutscher Bund. E la fanno qui perché c'era la possibilità di controllare e di serrare completamente la via del Brennero, l'antichissima, dicevo, dell'Ambra. L'Ambra serviva o veniva utilizzata dai Romani, dai Fenici, eccetera, eccetera, eccetera, perché era un talismano, valeva di più dell'oro, perché dicevano che faceva passare il mal di gola, ad esempio, eccetera, eccetera. No, funzionava anche per questi scopi, quindi era preziosissima. E da qui, non dimentichiamocelo, si diparte la vera, vecchia, antica strada della Pusteria. E la Pusteria dove porta? Porta a Vienna, nel cuore dell'impero austro-ungarico. Quindi controllare questo punto era fondamentale. Bene. Vi dicevo che questo complesso presenta dunque queste novità, queste 13 sottostrutture, la grande struttura a cittadella romana, quindi un'idea anche arcadica un po' di quelle che erano le fortezze che dovevano, come i castelli romani, i castellieri, eccetera, eccetera, che dovevano un po' essere a salvaguardia di un territorio e a scongiurare l'arrivo di un nemico. Naturalmente il nemico avrebbe potuto venire anche da nord. Ricordiamoci che nel 1809 l'arciduca Giovanni, che a 20 anni diventa comandante del Genio Pionieri, quello che costruisce, è il Genio Pionieri che costruisce questa roba qui, l'arciduca Giovanni conosce benissimo la storia, eccetera, è un letterato, no? È uno studioso. A 20 anni diventa generale comandante del Genio Pionieri, figlio di Leopoldo II di Toscana, tra l'altro, quindi con grandi, come si dice, grandi agganci alla cultura classica italiana, eccetera. Siamo ai tempi in cui si usa ancora fare il famoso Grand Tour, no? Dove i nobili vanno a vedere da Goethe e prima di Goethe e dopo, fino al fine dell'Ottocento, era in uso che i nobili, quelli che avevano un po' di soldi, quelli che avevano voglia di imparare o di studiare, andassero a fare questo famoso viaggio che in genere durava un paio d'anni e andava e portava nei grandi poli della classicità. Comunque, tornando alla nostra fortezza, l'arciduca Giovanni conosce benissimo la storia, sa che nel 1809 le truppe francesi, erano sassoni in realtà, ma venduti ai francesi, vengono dal Tirolo e attaccano, e lui lo sa, e vengono fermati proprio al Sachsenklemme, quindi subito sopra fortezza, 5 km sopra. Queste cose lui le sa benissimo, le sa perché lui in Alto Adige ci viene sempre, ci viene a caccia, ci viene a studiare i minerali, ci viene a studiare le Dolomiti, raccoglie sassi, raccoglie fiori, non come i nostri ragazzotti che al massimo raccolgono un fiore e lo mettono in un libro. Lui è in grado anche di classificare i fiori, cioè è un ragazzo di nobile famiglia che ha studiato come si studiava una volta, e si studiavano tutte le arti, da quella militare alla botanica, e lui classifica, ad esempio, una delle 15 sorte di negritelle che ci sono in giro nelle nostre malghe, nei nostri prati di alta quota, che si chiama Nigritella Archiducis Johannis, non per niente, quindi la studia, la classifica, sappiamo che poi sposerà una borghese, sappiamo che diventerà sindaco di Lienz, sindaco di un altro posto, che viene poi a morire a Scenna, dove, vicino a Merano, dove è sepolto. Un grand'uomo, insomma, con idee estremamente progressiste, molto liberali, molto democratiche. Lui ordina la costruzione di questo forte, perché dice ci serve anche un punto d'appoggio. In realtà si rivelerà una bufala, perché il forte, secondo gli storici, io non sono uno storico, mi occupo di cultura, di marketing della cultura, quindi è tutto un altro discorso, ma gli storici dicono sì, la fortezza è stata costruita troppo tardi, sarebbe servita 30 anni prima, ma quando viene costruita è già obsoleta nelle sue funzioni, e in effetti perderà continuamente di valore. Ricordiamoci, parentesi, che il primo comandante è un certo, scusate, von Kempf, è un sassone. E tra l'altro è il trisavolo o quadrisavolo di un amico, che è Franz von Kempf, che è il direttore oggi della Biblioteca Nazionale di Monaco di Baviera, Klaus, scusate, sì, non Franz, ma stavo pensando a Franz, Klaus, che io ho chiamato quando scopro questa cosa, e lui mi dice, ma può essere che fosse un mio avolo? E poi mi richiama 2 o 3 giorni dopo e mi dice, sì, era proprio lui. E mi racconta la storia della sua famiglia, erano sassoni, rimasti fedeli all'imperatore, e quando la Sassonia va sopra Napoleone, loro scappano a Vienna, e quindi non hanno più soldi, perché lasciano tutti i loro beni lì, i soldati diventano... I ragazzi diventano cadetti, poi ufficiali, e il più meritevole di questi diventa il primo comandante di questo forte, dono dell'imperatore questa nomina, perché lui è il rappresentante di una famiglia di fedelissimi alla... Quindi era un grande prestigio essere il comandante di questo forte. Ma comunque andiamo avanti. Ecco come si presentava la nostra fortezza. Questa è la mia ultima scoperta, è una incisione. Vedete, deve essere sicuramente stata fatta tra il 1838, giorno dell'inaugurazione, e il 1845, quando viene inaugurata la chiesetta, perché qui la chiesetta non c'è. A dare una falsa inclinazione ai cannoni nemici, da questo si capisce, questo è il tratto che è stato distrutto per costruire la strada statale. Vedete dove passava una volta la strada statale? Passava qui, poi qui ci passerà la ferrovia, oggi la statale passa qui. Qui sotto c'era, vedete, il grande passaggio sotterraneo che portava alla Fortezza Alta. Bene, questa era la fortezza vista da sud, guardate l'imponenza, questo è il famoso ponte Ladriccio, il nuovo, che gli archeologi hanno disperatamente cercato per tanti anni, e le teste di ponte si vedono in una foto che c'è nel mio libro del 2007 sulla fortezza, si vedono ancora i mattoni e le pietre delle teste di ponte, era 150 metri più in su di quello di oggi. Nasce questo enorme complesso. Dove prendono i materiali? I materiali li prendono da Falces, il granito, ma solo i graniti principali. Il granito di Falces, come dice il mio amico Hans Heiss, storico, dice 2 cose dure vengono da Falces, il granito e il nostro Landeshauptmann. E questi blocchi lo testimoniano, secondo le stime di ingegneri, non mio fratello purtroppo, ma di 2 ragazzi di fortezza, uno architetto e un ingegnere, i fratelli Fontana, hanno fatto delle stime misurandoli e moltiplicando per il peso specifico del granito, pesano 13 tonnellate l'uno questi. Qui c'era la famosa Aquila Asburgica, che nel 1922, non pochi anni fa, come c'è scritto sul sito erroneamente di fortezza, nel 1922 è stata portata via dal genio Plinieri, è stata portata a Roma e oggi è nel cortiletto interno del genio civile a Roma. Abbiamo chiesto in maniera non ufficiale che ce la restituiscano, ci hanno detto fatene una copia, potrebbero farsela tranquillamente loro, una copia, visto che non so cosa ti faccia l'Aquila Asburgica in un cortiletto del genio civile a Roma, ma comunque anche questi sono discorsi, discorsi che lasciano il tempo che trovano, perché la politica dovrebbe fare di più in questo senso restituire che cosa? L'autenticità si chiama, a un monumento, così come siamo stati in grado di restituire l'obelisco di Axum agli etiopici. Dovremmo essere in grado di restituire al Sud Tirolo, uso apposta la parola Sud Tirolo e non Alto Adige, un pezzo di quella che è l'unica struttura monumentale che Sud Tirolo abbia, antica monumentale, non parlo di modernità. E anche questa è una cosa così che può suscitare un certo dibattito. Allora, qui abbiamo la nostra chiesetta che è stata costruita nel 1845, anche questa è... ribadendo un po' il criterio dell'autenticità, prima di parlare di marketing bisogna scoprire esattamente che cos'è un monumento. La nostra chiesetta viene costruita perché noi sappiamo che in quel periodo Dio, patria, famiglia, imperatore erano le parole chiave per qualsiasi azione, per qualsiasi pensiero. Bene, Dio veniva al primo posto e i soldati, i 1200 soldati della guarnigione, volevano seguire la messa. Non c'era una chiesa nei dintorni perché fortezza non esisteva, Bressanone era troppo lontana, Varna era già fuori presidio, Aica anche, eccetera eccetera, quindi c'erano delle difficoltà, costruiscono questa chiesettina che viene inaugurata 7 anni dopo la fortezza stessa. Bene, questa chiesa presenta dei particolari, vorrei andare un attimo avanti, eccole, che sono questi, vedete questi, questi elementi architettonici si chiamano lacunari. E Gideon von Radot, che è un capitano che di 28 anni che progetta questa chiesa, Gideon von Radot spiega nelle sue memorie come abbia costruito sì la prima chiesa a sud del Brennero fuori in stile neogotico, che poi è uno stile che non avrà molto successo, ma dentro applica quelle che erano state le tecnologie romane nella costruzione del Pantheon a Roma, Pantheos per tutti gli dei, e quindi realizza all'interno tutta questa serie di lacunari, si chiamano. Perché? Perché naturalmente la chiesa è piccola, non ci stanno 1200 persone dentro, avrebbe occupato tutta la piazza d'armi se l'avesse progettata esattamente per la guarnigione. E invece la progetta così piccola solo per gli ufficiali e i sottufficiali, e quando il prete dice messa, questi lacunari che si inseriscono dentro nelle pareti come delle nicchie, triplicano praticamente quella che è la volta e hanno l'effetto dell'orecchio di Dioniso a Siracusa. L'orecchio di Dioniso funziona in maniera naturale, l'aveva scoperto questo grande tiranno siracusano che ficcava i suoi nemici lì, e questi sussurrando gli facevano ascoltare da fuori esattamente le loro voci, perché la voce veniva amplificata per ben 16 volte. Qui non è così pretenziosa l'opera, però abbiamo provato a fare dei calcoli misurando empiricamente con un microfono e un computer dotato di una scala fonica. Abbiamo misurato, insomma, all'incirca 4 volte la voce viene amplificata, e quindi fuori la guarnigione poteva tranquillamente seguire la sua messa la domenica senza dover entrare in chiesa. Bene, torniamo un secondo indietro perché volevo farvi vedere un paio di fotografie. Queste ad esempio riguardano i forni del pane. Il forno del pane, che fa parte del nostro progetto di marketing che vi illustrerò dopo, spero di non andare lungo. C'erano quelli che dicevano sarò breve all'inizio, io lo sapevo che sarei andato lungo. Comunque, spero di non annoiarvi, questo sicuro. I forni del pane, vedete, funzionavano in una maniera particolarissima. Qui sono incidenti le moderne tecnologie. Qui sotto c'è un piccolissimo forno a legna. Due pezzetti di legna bastavano per far funzionare un ambardan, potremmo dire, che faceva 500 pani alla volta. Questi forni, uno di qua e uno messo di là, sono profondi quasi 7 metri, 6 metri e 80 mi sembra. Bene, erano serviti da questi immensi volti di mattoni refrattari che venivano riscaldati a questo piccolo fuochetto che molto probabilmente veniva tenuto sempre acceso, ma che necessitava solo di due piccoli pezzi di legno. Qui dentro avevamo un gran padellone contenente dell'acqua, mantenuta in ebollizione, e qui c'era un coperchio che è simile a quello dei fonti battesimali, rotondo, dal quale si dipartivano due tubi che venivano sorretti da questi stanti, e entravano, vedete qui la paratoia chiusa, ma qui dietro c'è un buco che entra dentro, e tramite i due tubi, che venivano poi regolati tramite un sistema a mano, il vapore andava dentro, e quindi il pane si cucinava sia col calore che col vapore. Ne risultava un pane che rimaneva morbido per molto tempo, e si chiama Dampfbrot, nel Palatinato lo usano ancora in Sassonia, lo usano ancora in certe zone della Germania, assomiglia un po' al nostro pane in cassetta, tanto per dire, quello col quale facciamo i toast. Bene, anche questa è una novità assoluta, perché qui si parla per la prima volta, ad esempio, di risparmio energetico. E Franz von Scholl, che progetta questa struttura, questo grande genio, che cosa tragicissima, no? Progetta la prima delle fortezze del Deutscher Bund, che viene realizzata in contemporanea a quella di Ulm, Mainz. Lui progetta quella. Poi progetterà la fortezzina di Nauders, qui, al confine, subito fuori, e progetta questa, che è la sua opera omnia. Bene, Franz von Scholl sa che in caso di assedio non può mandare fuori i suoi soldati a tagliare legna, e quindi crea una struttura che funziona a risparmio energetico, si direbbe oggi. Grande concetto. Pensate che, vedete questi mattoni, e anche questo è un concetto modernissimo che va illustrato e che va valorizzato in caso di musealizzazione della struttura. Tutti questi mattoni, 20 milioni di mattoni, cotti extra per la fortezza, hanno tutti un marchio KKF, che vuol dire Kaiserliche Königliche Festung. Oggi noi siamo abituati ad avere il prosciutto DOP, lo Speck col Guarantee Siegel, il vino DOC, ma nel 1800 pensare di avere i mattoni a denominazione di origine controllata, nel senso tu privato che li fai per me, mi garantisci che non abbiano bolle dentro, che non abbiano intrusioni di altri materiali, che reggano, eccetera eccetera, mi sembra che, e avere il controllo qualità, mi sembra che sia un'idea modernissima, no? E è per questo che l'idea di fortezza si sposa assolutamente anche con concezioni moderne, meno con l'arte moderna, perché credo che qui si faccia un po' di confusione. Andiamo avanti. Ecco, questa è la grande scalinata, per chi non l'avesse mai vista, mai fatta. Vi invito a farla. Pensate che, vedete dove c'è questo rosso qui? Anche l'occhio del fotografo inganna. Il fotografo, a proposito, è il mio sindaco di questa foto. Anche l'occhio del fotografo inganna. Una delle prime visite che abbiamo fatto al Forte c'era anche Reinhold Messner. E Reinhold Messner ha guardato su e ha detto, boh, in un paio di minuti siamo su, no? È arrivato qui e non sapeva di non essere neanche a metà. Eppure da qui giù è stata fatta con un obiettivo che inganna un po'. A questo punto dove la luce diventa più rossa, sono 270 scalini, mi sembra, no? Quindi è già una bella ravanata, per dirla alla militare, una cosa abbastanza... E anche questa è una cosa che va sfruttata dal punto di vista culturale. Questo per quanto riguarda l'autenticità della struttura. L'autenticità significa ripercorrere esattamente la sua storia, senza palle, senza case dell'imperatore che andava all'elefante a dormire. L'imperatore mica era scemo. Anzi, Ferdinando I era proprio scemo, lo dice Vera Weber nei suoi scritti, ma comunque non tanto scemo da andare a dormire in mezzo al granito su una panca quando poteva dormire all'elefante, visto che non c'era guerra. Non c'era il bagno turco, come qualcuno ha scritto, pur in buona fede e pur non avendo la possibilità che abbiamo oggi di vedere la fortezza nel suo complesso e di osservarla per ore come abbiamo fatto noi. A proposito, sia la casa dell'imperatore che il bagno turco, e ricordiamoci che siamo subito dopo Paolina Bonaparte, che si vantava di essere stata lavata, di essere stata lavata una volta sola nella vita, e quella dall'ostetrica quando era nata, perché poi tutto il resto era profumo, giravano con i pidocchi in testa, insomma, no? E qui non è che fosse molto diverso. Pensare a un bagno turco, cioè come se questo fosse la Disneyland o la Spa, il Wellness World dei soldati asburgici, non era proprio il caso. Ma comunque si è andati avanti per un bel po', si è andati avanti... direi fino all'altro ieri, a dire che questo era il bagno turco, addirittura c'era qualcuno che ha osato dire nel Forte Alto, e questa è la palestra. No. Perché? Perché c'è una sala piena di anelli attaccati al pareti. In realtà non è la palestra, sono le carceri, no? C'è un po' di differenza, credo. Ma lasciamo perdere. E allora, andiamo alla seconda parte del nostro discorso, che adesso diventerà un po' più noioso. Spero di no. Che cos'è la cultura? La cultura va letta, anzi, scusate, sono un salto indietro. Quando si parla di Forte e si parla di cultura, di norma si fanno enormi confusioni. Perché si associa la cultura sempre e comunque all'arte, sia moderna, sia contemporanea, futurista, come volete, ma comunque arte. Ma l'arte non è mica la cultura, l'arte è una piccola parte della cultura, eh? La letteratura è cultura, la scultura è cultura, i canederli sono cultura, la polenta è cultura, i balli tradizionali, i schuplatla sono cultura, gli schützen sono cultura, se fanno cultura naturalmente, e se si pongono non a livello politico ma a livello culturale, ma gli schützen sono cultura, così come è cultura l'Associazione Nazionale Alpini, così come è cultura la Fabbrica del Tempo, di cui... mi onoro di essere socio, così come sono cultura tante altre cose, è cultura anche quella che stiamo facendo noi. Quindi non è solo arte, e pensare alla fortezza come contenitore solo di arte, moderna, tra l'altro, come è stato fatto con Manifesta, credo sia un errore. Un errore perché? Perché oggi si parla di marketing della cultura, di realtà culturali che hanno senso perché sanno vivere da sole. È un discorso che affronteremo dopo, non vorrei far saltare le diapositive in malo modo andando fuori dal canovaccio che mi ero steso, ma comunque la cultura si può leggere in un contesto sociologico e antropologico, cioè la cultura sono quelle cose che abbiamo detto, sono i balli popolari, sono le canzoni, sono i racconti dei nonni, penso, non lo so, Azzelwurm, ve lo ricordate che qui su Raimond anni fa si faceva addirittura una maratona intitolata al famoso Azzelwurm, che si è stato questa specie di draghetto a metà tra un varano di Komodo e una salamandra, credo, perché lo dicono che chi l'avrebbe visto è lungo 50-60 centimetri, ha gli occhi di gatto, eccetera, eccetera, ti irretisce quando... comunque, il Azzelwurm c'era a Raimond. E questo fa parte della nostra cultura, delle nostre tradizioni. Ci hanno intitolato una maratona che è durata breve volte di 2 stagioni, poi è cultura, sono cultura i vecchi treni, sono cultura, è cultura tutto, ma in linea generale la cultura è tutto quello che caratterizza un popolo, che la cultura è anche la religione. Noi pensiamo, noi partiamo sempre dalla chiave di lettura che noi cattolici abbiamo la religione che è slegata più o meno dalla società. Ma non dimentichiamoci una cosa, senza né voler essere critici né a favore, noi siamo stati forse l'ultimo paese d'Europa ad approvare il divorzio perché avevamo il Vaticano in casa. Oggi nel nome della cultura islamica, ad esempio, si compiono delle aberrazioni. Io ho vissuto nei paesi musulmani, perché purtroppo l'Eritrea, da cattolicissima che era, con la rivoluzione è diventata musulmana, e avevo una moschea a 70 metri da casa mia. Gli avrei tirato all'imam perché mi svegliava tutte le mattine alle 5, ma questo non aveva nulla a che vedere col mio né con l'odio razziale, eccetera, solamente era il disturbo del galletto, no? Lì che i galli non ci sono, questo mi svegliava tutte le mattine alle 5 e io lavoravo fino a mezzanotte, quindi immaginatevi. Ma scusate se uso un termine inglese, ma la fortezza viene considerata o si può considerare quello che è un capital asset. Purtroppo l'economia pesca sempre nei termini inglesi, ma il capital asset è quello che definisce i distretti industriali, ad esempio. Noi abbiamo, in Italia, vi faccio degli esempi italiani, no? Noi abbiamo a Forlì il distretto dei divani. Tutti i divani che vengono prodotti in Europa, adesso ci sono i cinesi che fanno una grande concorrenza, ma vengono più o meno prodotti tutti nella zona di Forlì. Abbiamo il distretto della calzatura, Montebelluna, Treviso, quella zona, Cairano San Marco, mio padre veniva da quelle parti, e quindi... Questi si chiamano capital asset, cioè sono dei centri polarizzanti una certa attività, e in base a questa attività si creano delle sinergie tra produttori che hanno tutti lo stesso scopo, tutti la stessa volontà di vivere e di fare i soldi, e che se tu produci i lacci, io produco le tomaie, quello produce le suole e quell'altro confeziona il tutto, facciamo i soldi tutti. Questo è un capital asset, è un assetto di capitali. Nel nostro caso, parlando della cultura in generale, abbiamo 5 capitali, cioè l'economia si basa sempre su un capitale, soldi. Quando si pensa, quando parliamo di economia della cultura, noi ne abbiamo 5 tipologie di capitali, e adesso ne andiamo a vedere. Il capitale fisico, che è uno stock di macchinari, impianti, fabbricati ed edifici, l'ho messo in nero, fabbricati ed edifici, perché così abbiamo il primo richiamo al nostro forte, che sono utili per la produzione di altri beni. Vi dicevo prima, se io faccio le suole, quello fa i lacci, quello la tomaia, diventiamo tutti ricchi. Abbiamo un capitale naturale, che è un capitale non prodotto dall'uomo, ma sono le risorse naturali. Non per niente oggi la nostra provincia di colpo si è svegliata e dice: azzo, scusate, le Dolomiti sono diventate patrimonio mondiale dell'umanità e adesso le sfruttiamo per bene, come se prima non le avessero sfruttate, no? Il Super Ski l'ha inventato un certo Marzola, che era di Milano, ci vedeva a lungo. Ma tanto per dire, guardate che quello che ha fatto il Super Ski dal punto di vista economico viene esportato oggi da Alessandro Marzola, mio caro amico, viene esportato in Cina, in Bulgaria, in Russia. Cioè la cultura imprenditoriale viene esportata in tempi di crisi, perché sono in crisi anche loro, eppure lui, quando ha minacciato di chiudere la Plose perché a momenti gli sbaravano la strada per gli sciatori, tanto per metterlo in difficoltà, sarà forse perché si chiama Marzola e non si chiama Oberunter zur Centrale, mi vengono questi aspetti ogni tanto, scusatemi, ma lui ha creato un qualche cosa che che può, ha la dignità di venire esportato. È cultura imprenditoriale. Lui ha il know-how, quello che gli inglesi chiamano il know-how, per dire la pista la fai passare di là, perché è meglio? Perché se la fai passare di là magari si fanno troppo male e non ti vengono più. La funivia la tiri su di là perché risparmi 500 metri, ti va su dritta, di là viene il vento. Lui queste cose le legge perché le sa. Fortezza sa che cos'è il forte. Il bello è che Fortezza e i fortezzini sanno meglio degli altri che cos'è il forte, o perlomeno dovrebbero sapere meglio degli altri che cos'è il forte, e sono quelli che meno vengono interpellati quando ci sono realizzazioni da fare del forte. Questo è un po' una contraddizione. È come se voi andaste a pescare il marlin in California e vi prendeste come guida un neozelandese e non uno della California. Cioè, non è mica tanto logico, no? Eppure, torniamo al nostro capitale naturale, e noi ce l'abbiamo, è forte. Ma non solo. Come le Dolomiti, e questa è, guardate che è una tesi tutta mia, io ho fatto una proposta, una proposta ideale, che non è detto che debba venire seguita pedissequamente, è una proposta di un filo conduttore. Cioè si potrebbe fare questo, questo, questo e questo, che però sono tutti legati insieme. Purtroppo, e sono felice che il mio sindaco mi senta, purtroppo oggi che cosa sta facendo la politica in Alto Adige? Riguardante il forte, La politica altoatesina fa così, fa le cose un po' alla volta, giusto in tempi di crisi, però le fa in grande e non è proprio giusto in tempo di crisi. Facendo le cose un po' alla volta e affidandole sempre a persone diverse e non creando tra queste un filo conduttore, si rischia di avere un puzzle di cose che non interessano poi a nessuno. Invece di avere un capital asset, cioè un'idea base su cui, come nel distretto della calzatura, costruire e realizzare i lacci, le suole, la tomaia, eccetera, che però diventano scarpe. Allora bisogna decidere che cosa bisogna fare del forte. Andiamo avanti. Eccole qui le nostre risorse naturali, eccolo qui il nostro capital asset. Un'altra prospettiva, sempre grazie a quel famoso giro. La vedete, torniamo un attimo indietro con ragionamento, la vedete la grande fora dell'Isarco? Questa, qui l'Isarco faceva questo giro così. E questa, questo sperone roccioso era stato scelto proprio anche perché era contornato su tre parti dal fiume e quindi costituiva un valo naturale. Da questa parte, qui siamo a est e qui siamo a ovest. Questo è il nostro paesino. Bene, la terza accezione che riguarda il capitale, culturale naturalmente, è quello del capitale umano e deriva dalla presa d'atto che è il risultato dell'apprendimento dell'esperienza dei lavoratori, rappresenta una risorsa importante quanto quella rappresentata dal capitale fisico. E in questo lavoro, di cui stiamo facendo un breve riassunto, l'idea era, esattamente nel capital asset di Fortezza, di inserire un vecchissimo progetto fallito miseramente. Negli anni 90 si parlava a Fortezza del Museo delle Ferrovie. Hanno cominciato ad accantonare vaguni vecchi, ne sono rimasti ancora un paio. C'era il deposito locomotive, sì, lì possiamo fare, nel deposito locomotive la mostra. Poi arriva il tunnel di base del Brennero che dice spazzeremo via tutto, e il progetto, annunciato tra l'altro sui giornali, ma anche a suon di libri, a suon di celebrazioni, a suon di bevute di champagne, perché quando i politici si trovano, naturalmente, se non c'è la classica magnata bevuta, non si è realizzato niente, il progetto tramonta. Un mio professore, che si chiama Pierluigi Sacco, qualcuno di voi forse l'avrà conosciuto, o l'avrà sentito nominare, è stato anche il grande mentore per ciò che riguarda Manifesta, ma lui è un costruttore di distretti culturali, l'ha fatto a Lipsia, l'ha fatto a Milano e lo sta facendo in altri posti. Il professor Luigi Sacco un giorno mi racconta una storia e mi dice: ma sai fa, sono stato a Buenos Aires e ho viaggiato su un vecchio tram che è diventato un'attrazione incredibile. Su questo tram ci sono quattro che suonano e due che ballano il tango argentino. C'è la gente in fila piena così per vedere questa cosa. E allora io dico: a Verona ci sono 19 locomotive a vapore lì che arrugginiscono. Noi abbiamo il capitale umano Perché da noi a Fortezza, che è un paese molto strano, no? Fortezza ha 9 maestri di sci e non ha neanche una pista da sci. Tanto per dire. E quindi abbiamo capitale umano anche in quel senso. A Fortezza ci sono gli ultimi musineri. Il figlio di uno di questi oggi è istruttore internazionale, va in Germania, va in Francia, a insegnare a quelli che fanno i treni storici come si guida una locomotiva a vapore. Noi abbiamo 5-6 persone a Fortezza che sono in grado di riparare una locomotiva, perché allora il maestro, tra virgolette, faceva tutto. Cioè, si faceva portare la borsa dall'aiuto macchinista, dal fuochista, ma il maestro sapeva riparare la locomotiva, sapeva esattamente quando si doveva mettere l'olio negli stantuffi, sapeva esattamente quanto carbone gettare dentro nella fornace, sapeva quando era ora di spruzzare il carbone con un po' di acqua affinché non si consumasse, eccetera, eccetera, eccetera. Noi questo ce l'abbiamo. Avevamo l'idea di costruire, di realizzare un museo delle ferrovie? Ci sono i vagoni lì che stanno per morire, perché non lo facciamo un trenino storico che dalla stazione di Fortezza va fino al Forte, vecchia fermata militare, prima della stazione di Fortezza, e lo facciamo andare avanti e indietro, magari con 4 elementi che suonano il valzer di Strauss, visto e considerato che a Fortezza, ai lati della chiesetta, ci sono 2 zoccoli, e lì c'erano, nella nuova versione della Fortezza che uscirà fra 15 giorni, miracolosamente ha recuperato una foto, c'erano le statue di Radetzky, e del feldmaresciallo Radetzky e del feldmaresciallo Hess. E ricordiamoci che Strauss ha dedicato la famosa marcia, la conosciamo tutti, l'ha dedicata a Radetzky. Quindi vedete che il capital asset non va molto lontano, gli elementi del capital asset non vanno molto lontani da quella che è la storia e quindi l'autenticità della nostra fortezza. Andiamo avanti, eccola qui. C'è l'idea di capitale sociale, che è l'insieme di istituzioni, norme sociali, reti di relazione che influenzano il comportamento degli individui. Anche in questo, Fortezza è un paese un po' strano. Discutevo anche ieri, noi insieme a Salorno siamo il paese che più ha subito l'immigrazione extracomunitaria. Siamo all'incirca al 20%. Ma la problematica è un po' diversa. Salorno è un paese, Fortezza è un paese diviso in 3, c'è Fortezza, 5 km dopo c'è Mezzaselva, che è comune di Fortezza, 5 km dopo c'è Le Cave, che è comune di Fortezza. Alle Cave non ce n'è neanche uno extracomunitario, perché Le Cave è fatta tutta di case monofamiliari, vecchie, antiche, rifatte, rimodernate, ma tutte monofamiliari. A Mezzaselva ci sono 2 famiglie di persone che vengono extracomunità europea. A Fortezza, dunque, per quello che si dice, la percentuale relativa, e la mia prof spero che annuisca in questo, la percentuale relativa sulla popolazione di Fortezza è del 40-45%. È un pelo diverso, no? Quindi Fortezza, capoluogo, ha il 40-45% di immigrati. Visto e considerato che non ci si può mettere una pezza a questa situazione, perché ormai la globalizzazione è un fenomeno inarrestabile, io credo che bisogna sfruttare queste diversità. E come si possono sfruttare le diversità? Beh, sfruttando la storia di Fortezza. In un saggio che ho scritto per l'Università di Bressanone, di Bolzano, sede di Bressanone, ho parlato dell'eresia di considerarsi uno del luogo. È un'eresia. E questa mi è venuta in mente quando a Fortezza muore una certa Frida, che era l'ultima abitante dei Masi in alta quota che avevamo, che scendeva a valle poche volte, muore di cancro da sola, vomitando sangue, poverina, a 76 anni, quindi neanche tanto vecchia, e parlando con sua figlia, che non vedevo da 40 anni, mi dice, sai, fa, la nostra famiglia abitava in quel Maso già nel 1200. Allora ho fatto 4 conti, no? Fortezza, come paese, nasce nel 1899, quando viene inaugurata la chiesa. Prima c'erano qualche casa. Fortezza, come forte, nasce nel 1833, fino al 38, quando viene realizzata la fortezza. Quindi è chiaro che qualcuno di questi di questi immigrati, perché erano tutti immigrati che costruiscono una fortezza, 11 lingue diverse, 11 nazionalità diverse, quantomeno nell'esercito asburgico, è chiaro che gli abitanti di fortezza sono tutti degli immigrati. Sono immigrati miei, anche se io mi considero un doiga, uno nato qui, ma sono immigrati miei, perché i miei venivano dalla Val di Fiemme, una parte della Val di Fiemme, e mio padre veniva da Trevigiano, sono immigrati gli Amort, sicuramente che non sono di fortezza, sono immigrati i Dimnig, che sono cognomi... era un'immigrata la baronessa Irma Apport di Altoria, che è stata la benefattrice del comune di Fortezza e che ha fatto costruire la chiesa e l'attuale municipio, che era ungherese, e quindi bene o male è un paese di immigrati. Allora, se giriamo in senso storico questa prospettiva, possiamo anche guardare verso i nuovi immigrati, sempre che riusciamo a inglobarli nella nostra società, perché purtroppo le alte percentuali di immigrati fanno sì che loro si autoghettizzino, perché sono in tanti e quindi fanno gruppo e non hanno bisogno di contattare il gruppo altro che è quello dei residenti. Quindi loro vivono la loro vita, noi viviamo la nostra, nessuno disturba, però non c'è alcun contatto, o quasi. Bene, si allarga ulteriormente la visione di capitale, che è quello che fa funzionare le banche e nel nostro caso è quello che fa funzionare la cultura. Si arriva alla definizione del capitale culturale, cioè l'insieme di risorse che incorporano, conservano e producono valore culturale in aggiunta rispetto a qualsiasi valore economico esse abbiano di per sé. Vi avevo appena detto, la multiculturalità di Fortezza può essere una di queste cose. Dunque, mai come nel caso in esame, la fortezza è per antonomasia una forma tangibile assoluta di capitale culturale da riempire con un asset di risorse intangibili, perché la cultura qual è? La problematica della cultura, che non la tocchi, che non la puoi stoccare, che non la puoi mettere in un magazzino, che non la puoi far fruttare in banca. Questo è il grande problema della cultura. Ma credo che Del Throsby, che nel 1994 ha visto pubblicato un suo articolo sul Economic Journal, non posto di lavoro, ma un legame ideale tra quelli che sono gli abitanti del paese è quello che è la struttura monumentale. È un po' quello che in Italia non si è ancora capito. L'altro giorno a Pompei crolla il soffitto, ma sapete perché? Perché non solamente l'incuria dello Stato, la mancanza di fondi, eccetera, ma c'è anche il disamore della gente di Pompei per quella che è l'antica città che dà loro da mangiare. Perché quelli vanno lì, fanno le guide non autorizzate, sfruttano, li fanno pagare, eccetera, per chi c'è stato lo saprà, e se c'è una carta per terra non la raccolgono. Capite? Una struttura va vissuta dal di dentro, va amata, va guardata con entusiasmo, va guardata come patrimonio per i figli. Ecco il capitale culturale. Va guardata in questa maniera. Voi lo sapete chi è l'alto atesino medio che meno ha visitato la fortezza? Penso agli abitanti di Fortezza. Io ne ho visti pochissimi, ce ne sono tanti che mi hanno detto ma io l'avevo già vista quando c'erano i militari, sono andato lì a comprare il formaggio. È che pensavano di entrare al forte, erano entrati in quello che oggi è il parcheggio del forte, null'altro. Il resto non l'hanno visto, ma non gliene frega niente. Anche perché l'imprenditoria, la politica, le menti creative, culturalmente creative, che sino ad oggi hanno operato nella fortezza, hanno sempre e comunque lavorato disgiunte da quello che era il pensiero del paese. Cioè non sono mai... Guardate, tranne Manifesta, devo fare una lode, Manifesta non ha toccato l'integrità della struttura. Sulla bontà o meno delle opere d'arte... lasciamo perdere, è un'arte che io non capisco più, è perché sono ignorante, non, ma sapete, dalla merda d'artista presentata nel 72 alla Biennale, io ho cominciato a non credere più in quel tipo di arte. È diventato famoso, è diventato grande, forse è una provocazione, forse l'arte è un'altra cosa da quella che l'abbiamo intesa noi come amanti della storia, io dico amanti, lui come professionista della storia, però... io da lì non ho più capito, quindi non ho capito perché mi devo sentire raccontare una puttanata tramite un microfono o un auricolare ma non ho capito contemporaneamente un'altra cosa. Non ho capito perché la provincia annunci entusiasticamente che la Landesausstellung, che c'è stata invece l'anno scorso, ha avuto 100.000 spettatori. 100.000 spettatori. Bene, in questo lavoro, di cui chiaramente non possiamo passare tutti i particolari, io ho fatto necessariamente dei confronti. Si chiamano, anche in economia, best practice, no? Cioè, tu vai a vedere chi sa fare le cose meglio di te e impari. I cinesi ci stanno insegnando cos'è la best practice. Ci copiano in tutto e per tutto e lo fanno a molto meno prezzo di noi. È per quello che diventano, hanno un PIL che schizza non si sa dove. Anche per quello. Ma quello che volevo dire è il coinvolgimento della popolazione viene fatto in maniera assolutamente marginale e così abbiamo 100.000 spettatori alla Landesausstellung a fronte di un investimento che comunque è un investimento che dura nel tempo ma un investimento primo della provincia che ufficialmente si attesta sugli 8 milioni di euro, sono 16 miliardi delle vecchie lire, ma sembra che abbia sbordato un po' da queste cifre arrivando quasi a 9. E un giorno io a Sabine Kesslater-Moore ho fatto un ragionamento che l'ha fatta molto incazzare e gli ho detto, vede, se lei avesse dato a me, ma non perché io sono più bravo degli altri, ma perché faccio i conti della serra, se lei avesse dato a me 9 milioni di euro, io prendevo i 100.000 spettatori della sua Landesausstellung, li portavo alle Maldive con dei voli charter per una settimana, li riportavo a casa, avanzavo circa 3 milioni di euro, ho fatto un conto così alla buona, guardando qualche viaggio low cost e qualche volo charter, avanzavo 3 milioni di euro, per cui potevo ancora fare delle cose, e questi avrebbero ricordato quello come un'esperienza unica nella loro vita. Sono venuti alla fortezza e della fortezza non gliene frega più niente. Avete capito come funzionano le cose? Noi, come Oppidum, come associazione culturale, abbiamo avuto quest'anno all'incirca un 20.000 visitatori che sono venuti a fare visite guidate. Bene, tranne che i 15 giorni di Ferragosto, tutti gli altri vengono dalla Germania. Allora, perché i tedeschi vengono? Perché alla gente nostra non gliene frega niente. Ma perché? E lo dico in questo lavoro perché sono stati compiuti degli errori enormi. Perché quando io parlo di distretto culturale, non parlo di fortezza, fortezza non può fare distretto, ma parlo delle comunità che stanno intorno anche a fortezza, e cioè con potenzialità molto superiori, cioè Bressanone, Varna, Nacciave, Serio di Pusteria, è un circondario che potrebbe essere estremamente utile anche dal punto di vista degli investitori, dal punto di vista degli sponsor, ma pensiamo anche alle grandi ditte che in Alto Adige potrebbero fare da sponsor, non occupare, ma fare da sponsor alla fortezza, penso, non so, alla Loacker, ad esempio, con i suoi nanetti, che troverebbero tranquillamente posto in qualche... e non disturberebbero. Il grande concetto, comunque, è quello di coinvolgere la popolazione. La popolazione deve amare quel posto, la popolazione deve trovarsi bene in quel posto, la popolazione deve ritornare, soprattutto. Perché oggi si parla di fidelizzazione di un cliente, le banche ti fanno... Allora, se tu hai il conto arancio, ti facciamo anche il bancomat, ti facciamo anche questo, basta che tu resti da noi. Ti diamo il 2,7, quell'altro il 2,4. Perché? Perché vogliono che il cliente rimanga, non che cambi. La Vodafone fa la stessa cosa. Ma perché la cultura non può fare la stessa cosa? Perché io devo vedere una volta il forte di fortezza e poi non tornare mai più, tanto l'ho già visto. Il posto? Ci devi andare 20, 30 volte. Al British Museum ci vanno le donne col carrozzina a portare a spasso i bambini, vanno lì, si bevono il tè, si guardano l'ultima mostra esposta, se ne vengono fuori, dopo due giorni tornano di nuovo, eccetera, eccetera. Questa è la fidelizzazione nel campo culturale. C'è una ricerca della Bracco, azienda farmaceutica, condotta tra Sicilia, Calabria e Basilicata, dove è stato visto che chi consuma cultura in quei posti e nei paesi dove si fa più cultura, la gente usa il 70% di meno di medicinali e vive il 12% in più di quella che è la media della vita del paese. Capite che cosa fa la cultura? La cultura, parlo della cultura, non dell'arte, vi prego, di quella cultura che abbiamo detto prima, unisce la gente, la cultura stimola, la cultura ti porta a ricercare, a confrontarti, la cultura ti porta a vedere che cosa fa il tuo vicino e la cultura ti porta a avere, voi pensate a un coro, i cori della montagna, quelli nostri, possono piacere o non piacere, no? Ma i coristi vivono una certa simbiosi tra di loro, vanno in trasferta, le famiglie gli vanno dietro, e non pensate che sia una forma di turismo? Quando prima vi dicevo che ho contestato l'assessore alla cultura, era perché i miei studi sul forte sono stati mossi provocatoriamente da un altro assessore alla cultura che c'era prima, che nel 1994, quella volta famosa di Reinhold Messner, che vi dicevo che si è fermato sulle scale, mi ha detto: Was fällt es Franzischwester mit den Haufenstoane? Tradotto per chi non lo sa, cosa volete voi fortezzini, questo mucchio di sassi? E mi sono incazzato come una bestia e gli ho risposto: vede, assessore, lei è l'assessore alla cultura della nostra provincia. Lei sa che cosa sono le piramidi? Quelle sono un mucchio di sassi. Hanno anche la forma del mucchio, ma lei vada in Egitto a dire che sono un mucchio di sassi. L'ha capita, quest'estate era di nuovo da noi un paio di volte, però l'ha capita tardi, capite? E se un politico capisce tardi le cose, ci ha fatto perdere il treno. Andiamo avanti. Allora, agganciamo queste grandi teorie economiche l'ipotesi progettuale relativa al forte, inteso come industria principale, attorno al quale e nel quale si potranno muovere più piccole iniziative che hanno però nella struttura un poderoso strumento di riferimento e dunque entrano a far parte dello stesso processo produttivo e culturale. Adesso ce ne sarebbero ancora di diapositive un migliaio, ne vedremo solo tre. Vado a braccio, preferisco. Io ho preso un esempio, perché queste cose ti vengono come flash, no? Un giorno mi capita in mano un libro di Hans Finck, forse qualcuno di voi l'ha conosciuto. Hans Finck era un albergatore di Bressanone, che poi si è messo a fare lo storico, ha recuperato saghe, leggende, ha scoperto i menhir di Scezze, cioè uno dei più bei menhir che sono stati ritrovati relativa alla cultura rettica, del bronzo, dell'età del rame. L'ha scoperto lui, ha scoperto tante altre cose, era un ratto che andava in giro e gli piaceva la matti, parlava un perfetto tedesco, benissimo l'italiano, ha scritto un sacco di bellissime cose, ha fatto cultura molto di più di tanti professori, letterati, eccetera, eccetera. E ha scritto un libro in cui ha recuperato, ciao Stefano, storico, Stefano Barbacetta, in cui ha recuperato le saghe e le leggende dell'Alto Adige. È un librone così bellissimo. E io mi sono ispirato a questo. Ho detto: ma perché nel nostro forte non riproporre il museo delle saghe e leggende dell'Alto Adige? Allora ho fatto un salto indietro. Ho detto: quanti musei abbiamo in Alto Adige? Lo sapete voi? 89. Scommetto che ne conoscevate tre. Allora voi capite qual è il problema? Se ne conoscete tre, gli altri 86 vivono grazie a un volontariato trovato così, a Villandro, questi ragazzi che da ragazzini andavano, da bambini andavano a giocare dentro nelle miniere, piano piano hanno creato un club, hanno ripulito, si sono fatti come una capanna e adesso ogni tanto hanno qualche visitatore perché glielo manda all'albergo X o all'albergo Y, perché arrivano gli ospiti e dicono: cosa c'è da vedere qua il giorno che si sono rotti? 86, dicevamo, se ne conosciamo 3, 85 se ne conosciamo 4, musei che sopravvivono grazie alla mano pubblica. E allora il ciclo perverso del sopravvivere grazie alla mano pubblica è dipendere dalle labbra della mano pubblica. Quindi la mano pubblica decide quanto, come, dove tu devi vivere, in che maniera devi vivere. E siccome la mano pubblica è politica, è chiaro che la cultura dipende dalla politica, e questo non è possibile, perché la cultura è in antitesi con la politica, oppure corre parallelamente alla politica, l'ha dimostrato quel famoso assessore che si chiama Bruno Hosp, quello del mucchio di Sassi. E allora come si fa per rendere una struttura, un distretto culturale, indipendente dalla mano pubblica? Deve imparare ad autosostentarsi, cioè la mano pubblica è giusto, è corretto che dia il contributo di partenza, cioè che faccia da razzo vettore, ma poi la cultura deve diventare autonoma, le strutture culturali, il distretto culturale deve diventare autonoma. È una lezione che qui in Alto Adige nessuno ha ancora mai capito. Discutevo con amici che non voglio coinvolgere in questo discorso, ma mi assumo la responsabilità di quello che dico, dell'errore madornale che è stato fatto a Bolzano a fare il museo di Ezzi lì. Il museo di Ezzi ha fatto due cose. Uno, ha cancellato il museo archeologico. Qualcuno parla ancora delle monete romane di Traiano trovate? No, nessuno. O della monade trovata a Sant'Andrea? O di... No, nessuno. Tutti parlano solo unicamente di Ezzi. E allora diventa il museo delle mummie. La seconda cosa è stata quella di farlo in un centro storico. Se tu vuoi che un museo abbia successo, tu me lo devi rendere accessibile. Tu mi puoi far parcheggiare a San Giacomo e pretendere che io vada a vedere Ezzi. A me di Ezzi non me ne frega proprio niente. Cioè, l'ho visto mille volte in televisione, di vederlo da vivo, magari ci vado 5 minuti, ma poi la fidelizzazione, cioè ci vado per curiosità, ma poi io al museo non ci torno più, l'ho visto. Cazzo me ne frega delle mummie peruviane. Visto che viviamo in un'epoca di globalizzazione, vado in Perù e me le vedo lì. Le vedo in un contesto molto più bello. Non ci possono andare tutti, verissimo. Però non vedo perché a Bolzano devo vedere le 6 più scalcagnate che girino l'Europa, insomma, capisce? Non siamo più al Museo Egizio di Torino o al British Museum. La qualità della roba che arriva qui non è certo la migliore, perché gli altri stati non sono cretini, non ci danno le robe migliori, o perlomeno se ce le danno costano salatissime. E allora il museo di Ezzi continua a perdere visitatori. Dai 300.000 il primo anno sono passati a 200, le stime di quest'anno dicono 140.000. Ma voi capite che per un museo che ha un pezzo unico al mondo come la mummia del Similaun è un disastro, cioè secondo me è un marketing fallimentare, è un'opinione, non... C'è stato qualcuno, perché al mio paese qualcuno ha detto che faccio il saputello, e qualcun altro mi ha detto: Dario, a Fortezza tu non devi sperare niente perché nessuno ha mai fatto il prete nel paese dove è nato. Sarà anche vero, prova ne sia che faccio il missionario a Bolzano oggi, no? Ma comunque, vedete, è la cosa esattamente l'opposto di quello che invece è avvenuto in America, dove per primi hanno creato i distretti culturali, è venuta a Liverpool, dove per secondi hanno creato i distretti culturali, è avvenuta in Austria, dove per terzi e con grandissimo successo hanno creato i distretti culturali. Adesso vi spiego che cos'è un distretto culturale funzionante. Parlo di Denver, Colorado. A Denver tutti sappiamo che ci fanno la Coppa del Mondo di sci, tutti sappiamo che ci sono belle montagne e che ci si va a sciare. 7,5 milioni di visitatori l'anno, Denver, per lo sci. 9,4 milioni visitatori l'anno per la cultura. Perché? Perché, e guardate che Denver c'ha una squadra di basket che gioca nell'NBA, c'ha una squadra di hockey che è tra le migliori dell'America, e sappiamo quanto l'hockey sia seguito in America, c'ha la squadra di football americano che tira e riempie gli stadi. Eppure, non per lo sport, non per lo sci, 9 milioni a fronte dei 7 che ci vanno lì per lo sport. Perché il Colorado Ballet è conosciuto come da noi il balletto della Scala. Perché Denver ha fatto una cosa, ha creato, grazie a 250 mamme di un quartiere che si lamentavano del quartiere della Shanghai, diciamo così, di Denver, e che hanno fatto una petizione al sindaco, il sindaco le ha ascoltate. E erano le saputelle, cioè erano mamme di borgata, no? Sono andate lì e lui ha detto: dateci una lista di 11 desideri. E questi hanno detto: vogliamo che i nostri figli escano dalla strada e imparino danza classica o imparino a suonare uno strumento, si sono fatti consigliare dai maestri delle scuole, eccetera. Insomma, questo sindaco che aveva evidentemente il cervello a posto, visto il successo, questo 11 anni fa, ha dato il là a questi 11 desideri. Bene, 9 milioni di visitatori a Denver e vengono tutti fuori. Le scuole di Denver, che è una grande città americana, contano all'incirca 600.000 studenti. Sono 2 milioni e 400.000 gli studenti che vengono da fuori per visitare le cose di Denver, che non ha un grande museo, ma ha il Colorado Ballet, c'ha una grande orchestra sinfonica, e i bambini delle scuole vengono portati a sentire l'orchestra sinfonica. Avete mai visto voi le scuole elementari di Piteno venire a sentire l'orchestra Haydn? Mai. Mai. Un altro esempio. Linz, Austria. Non parlo di Liverpool, che era la grande città industriale dell'Inghilterra, e di colpo si trova con la crisi dell'industria a chiudere bottega e diventa oggi quella che è la Hollywood, diciamo così, inglese. Tutti i film inglesi vengono prodotti lì. I vecchi capannoni sono diventati capannoni dove si girano gli interni, gli esterni sono stati rifatti, è una Hollywood modernissima e funzionale. Parliamo di Linz. Linz era la capitale della siderurgia austriaca. Un bel giorno, 15 anni fa, si chiudono le industrie, Linz è completamente in crisi, la gente se ne va, la qualità delle scuole scende, perché vedete, poi quando crolla una cosa, porta con sé il crollo dell'indotto. Fortezza, oggi abbiamo una maestra dell'asilo che mi racconta, mi dice, sto diventando pazza, ma non perché i bambini siano cattivi, ma perché io ho 23 bambini all'asilo e 11 sono di qua, italiani e tedeschi, e gli altri sono extracomunitari. Ma il problema non è che siano extracomunitari, il problema è che parlano 10 lingue diverse. Urdu, cioè, dall'urdu al marocchino, al tunisino, cioè, sono lingue diverse, sono realtà diverse, sono culture diverse. E prova a mettere insieme 20 pargoli scatenati con 11 lingue diverse. È un casino. Quello mangia con le mani perché la mamma gli ha insegnato a mangiare con le mani. Appena entra si toglie le scarpe perché la mamma gli ha insegnato così. E non si mette le pantofole perché non si usa. Cioè, capite? Lo scontro generazionale, il crollo di una struttura industriale come era quella di Fortezza, provoca anche poi, come ultimo gradino, provoca anche queste problematiche qui che non sono irrisolvibili, sono irrisolvibili, perché noi non siamo preparati alla multiculturalità. Noi siamo stati colonizzatori della domenica, ma non siamo mai stati colonizzati, per dire. Quindi, invece, non so, l'Olanda, che ha sempre avuto le colonie, è abituata a vedersi quelli delle Antille in casa, perché tanto ci venivano. La problematica, quindi, è il legare la struttura culturale a quella che è la popolazione. Linz, dicevamo. Linz, terza città dell'Austria, polo siderurgico dell'Austria, vede crisi della siderurgia, quella che abbiamo vissuto anche noi qui a Bolzano, chiudono le fabbriche, si svuota l'università, si svuotano le scuole, i negozi non fanno più affari, cioè, un disastro, una crisi. È come ogni anno un piccolo teatro di Linz ospita l'orchestra cittadina, come la nostra Haydn più o meno, che suona Bruckner, Festival di Bruckner. Allora, Mozart lo conosciamo tutti, Beethoven lo conosciamo tutti, ma Bruckner no. Alla direzione del teatro si presentano due ragazzotti, 23 anni mi sembra avessero, che dicono, scusate, noi vogliamo fare un esperimento, ci lasciate piantare due telecamere, due microfoni qui, e noi mettiamo un mega schermo fuori dove vogliamo noi, mega schermo da 20 metri, è una roba che avevano, erano degli innovatori, e facciamo accedere, visto che il teatro c'ha 150 posti, facciamo accedere anche qualcun altro. Non li hanno presi sul serio, no? Bene, loro hanno piantato il mega schermo su un'ansa del Danubio, 157.000 spettatori. Sapete che cosa significa? Significa che da quel momento Linz è diventata la capitale di Bruckner, che è la nuova, hanno capito le tendenze dei giovani, perché erano giovani loro, hanno portato i giovani a apprezzare la musica classica. Ma tramite questo mega schermo che si erano inventati loro, Linz oggi supera la Silicon Valley nella produzione di computer. Ci sono 5 nuove facoltà universitarie, sono stati realizzati 6.500 nuovi alloggi, c'è gente dall'India che viene a progettare computer a Linz. Capite che lì la multiculturalità e l'immigrazione assumono altri toni, perché se mi... lo dico non per fare il moralista, ma vedete che quando arriva il Dalai Lama ci prostriamo tutti, è un extracomunitario. Quando arriva lo sceicco a Sheraton qui a Bolzano, ci mettiamo tutti a 90 gradi, perché è uno sceicco, c'ha i miliardi e Bolzano se la potrebbe comprare tutta. E quando arriva il povero Cristo, che magari è delinquente perché è un povero Cristo, o è diventato delinquente perché era un povero Cristo, o magari perché è nato in un sobborgo di Nairobi, non ha conosciuto null'altro, a quello gli diciamo, capite qual è il problema? È avere anche immigrazione qualificata. Se mi arriva l'ingegnere, che sia canadese, e ce ne abbiamo uno, io ce l'ho porta a porta quasi, o se mi arriva dall'India, e si viaggia in Porsche, nessuno dice, scarogna, abbiamo troppi immigrati a Fortezza. Capite qual è la problematica? E la problematica si risolve col Forte, perché è l'unica cosa, Fortezza non ha campi, Fortezza non ha, avrà domani il tunnel di base del Brennero, che sono baracche, con centinaia di operai, buchi, rumore, polvere. E quindi l'unica soluzione è quella di creare una struttura culturale. Una struttura culturale, ritorno a Hans Finck e sto per finire, una struttura culturale che abbia come nervo, come colonna portante, cioè come cultural asset, che si diceva prima in economia, che abbia, io l'ho vista così, poi può essere un'altra cosa, ma il recupero delle saghe e delle leggende fatto da Hans Finck. Si può fare un museo tipo Swarovski Museum di Wattens. Oggi la multisensorialità è fondamentale nei musei. Guardate Trautmannsdorf. L'hanno progettato gli architetti su tirolesi, no? Però a farti la caverna per i bambini, dove tu ti siedi e senti l'odore dello zolfo quando ti raccontano dei tempi in cui la terra era solo vulcani, e senti il rumore della pioggia e lo scrosciare della pioggia quando ti parlano del diluvio universale, tra virgolette, eccetera, eccetera. Questa multimedialità applicata l'ha fatto uno svizzero che si chiama Otto Steiner e che è conosciuto come un genialoide in queste cose. E è quello che dovrebbe accadere nel nostro Forte. Allora, io avevo pensato alle fiabe e leggende di Otto Finck, giusto, di Hans Finck, giusto per tenere il tutto nel distretto culturale che si è autoprodotto, cioè nasce da una persona di Bressanone che conosceva benissimo la realtà dei nostri luoghi. Tra i famosi 89 musei che ci sono in Alto Adige, tra l'altro questo non c'è, e quindi sarebbe anche una cosa nuova. Applicata in maniera multisensoriale, così come lo è il museo Swarovski di Wattens, sarebbe, credo, potrebbe essere un successo. Non sono un architetto o un designer di musei, quindi non posso dire come dovrebbe essere fatto, però vi dico solo una cosa, che Wattens era l'unico paese del Tirolo che, siccome non aveva piste da sci e non aveva grandi chiese eccetera eccetera, era lì come in campagna, quattro patate. Oggi a Wattens ci va 1 milione di visitatori l'anno, i quali spendono soldi nei negozi di Wattens, comprano le giacche a vento perché vengono dalla Cina, lì ci sono altre temperature, comprano giacche a vento nel negozio sportivo di Wattens. Se vengono dal Mediterraneo pagano il Ponte Europa e il Ponte Europa sponsorizza il Kristallnacht di Wattens, eccetera eccetera. Capite quali sono le sinergie? Quando ho discusso di queste problematiche con dei politici di qua, questi hanno detto, ma noi come facciamo a tirar fuori la gente, ad esempio, che passa in autostrada e avere quel milione di visitatori, adesso è una cifra esagerata, che comunque potrebbe garantire l'autosostentamento della struttura? E anche lì ho fatto una piccola ricerca. Voi lo sapete qual è la caffetteria in Italia e quindi in Europa? Noi siamo i caffettieri cioè quelli che bevono più caffè per eccellenza, no? E quindi in Europa, e quindi nel mondo, che vende più caffè? Qual è il bar che vende più caffè in tutta Italia? Il bar che vende più caffè in tutta Italia è il bar della corsia sud dell'autostrada Campo di Trento. 6.564.000 caffè ha fatto nel 2009. Voi sapete, guardate cosa ha guadagnato quel tizio, 6 milioni e mezzo di caffè. E lo sapete perché? Perché c'è un fenomeno che si chiama sinestesia e riguarda quella che si chiama l'attenzione verticale. Allora, no, non si chiama, l'ho chiamata io, attenzione verticale, ma sembra stia diventando adesso un termine di uso comune. Noi abbiamo due livelli di attenzione. Voi immaginatevi, avete tutti la patente quando andate in autostrada, no? Guidate e siete concentrati sulla strada, poi ogni tanto c'è qualcosa che hai visto, ti sembrava un castello, ti sembrava un'abbazia, ti sembrava un qualcosa. In quel momento la tua attenzione, che è orizzontale, che è ridotta, è girata verso la strada, si verticalizza a un picco. È quello che, collegato con la sinestesia, che è l'accostamento di idee, questo mi dice quello, diceva la professoressa Ferrari, che io non ho buttato via i miei quaderni delle elementari e sono felicissima che mi abbia portato una mia relazione di fisica di quando avevo 14 anni, non ci vediamo da allora, da quando ne avevo 16, credo. Perché? Perché una cosa mi rimanda all'altra. Quando sento, quando bevo qualcosa di amaro, mi ricordo il tè che... Di il Tausendgulden-Tee o erba bonna, come la chiamava mia nonna, mi dava quando avevo mal di pancia. Queste si chiamano sinestesia. Allora, la sinestesia causata dalla bandiera italiana, quando i tedeschi, gli olandesi, gli inglesi, eccetera, entrano, scendono giù per l'autostrada, vedono la bandiera italiana, macchiato, caffè, cappuccino, e quell'altro 6 milioni e mezzo di caffè. Allora dico, se insieme alla bandiera italiana ci metto un cartellone così, che lì c'è il museo delle saghe leggende, che lì c'è un ristorante dove puoi mangiare i primi spaghetti da quando entri, e magari ti do il bollino e se torni dopo 5 bollini ti regalo gli spaghetti gratis, voi pensate che io non li porto 500.000 persone? Io scommetto di sì. È chiaro che poi gli devo far vedere una cosa che va bene per i bambini, che va bene per gli adulti e che va bene anche per i ragazzi di una certa età, e questi vogliono action, vogliono azione. E l'azione, con le saghe leggende, ad esempio, la puoi fare, no? Le saghe leggende comprendono anche le streghe. A Bressanone si facevano roghi fino al 1700. Le streghe, le streghette, sono anche quelle che, non so, che lavorano con le erbe botaniche, si potrebbe fare il giardino botanico. La montagna, che sta sopra il nostro forte, dove c'è l'Acropoli, potrebbe tranquillamente diventare... quello zoo, quell'Alpen Zoo che Tires ha rifiutato anni fa con il referendum, no? Da noi ci sono già, io vado lì anche d'inverno perché vado su sempre a vedermelo da fuori, da dentro, perché così sono un po' innamorato di quel mucchio di sassi. E io ci ho visto cervi, camosci, caprioli, ci mettiamo anche due linci che abbiamo magari importato, due orsacchiotti, eccetera, lo recintiamo, quattro altane. Sapete, l'Alpen Zoo a Innsbruck fa migliaia di visitatori. E sono percorsi didattici. Sapete che oggi i bambini delle città sono convinti che il latte lo faccia il supermercato e non la mucca? Cioè, siamo ridotti a questo. Io ho fatto una lezione alle scuole elementari di Sant'Andrea, sopra Bressanone. Lo sapete che su 26 bambini solo due avevano visto un treno nella loro vita? E erano saliti su un treno. Ho fatto una lezione per fare un'indagine per l'università, ma il concetto è che oggi la conoscenza si ha non solo attraverso la scuola. Allora vi parlavo del Museo delle Saghe e Leggende, che rischiano di andare perdute perché non ci sono più le nonne che raccontano, no? Altrimenti questo oggetto culturale porta automaticamente a una riproduzione. Io ho messo riproduzione o una produzione. Quindi cosa significa? Significa che questo porta a produrre beni, a produrre servizi e quindi a fine della fiera a produrre posti di lavoro. Porta a un'implementazione, perché tu come gestore di una struttura culturale, la nostra direttrice qui lo saprà, ma lo sanno anche quelli di Trautmannsdorf, lo sanno, ti devi continuamente rinnovare, devi continuamente proporre se vuoi avere un pubblico, pagante o non pagante, ma non importa, guardate, basta che venga. E questo crea un sistema di produzione e crea anche creatività, creazione e identificazione nella gente. La gente comincia a sentirla proprio. Andiamo all'altra e poi finiamo. Lasciamo perdere Questa era Swarovski, ve l'avevo fatta troppo lunga. Questo è un grafico che ho realizzato su supporto di uno studio sui tempi di attesa. Il sistema per tirar fuori la gente dall'autostrada, che sembra sia la grande domanda che si fanno gli architetti, mi scuso con Stefano, ma sembra che gli architetti siano gli unici depositari della cultura in Alto Adige, li chiamano a realizzare musei, giardini botanici, no, lui è uno storico, non è un architetto, ma io credo che l'architetto abbia non solo, ma anche queste funzioni, ma non solo. Comunque, allora, i tempi di attesa sono stati studiati, non ultimo all'Università di Milano, alla Bocconi, e sono stati studiati con supporti e facilitazioni e senza supporti. Ecco perché i nostri turisti germanici vengono fuori dall'autostrada, perché hanno bisogno di una sosta. E tu la sosta gliela devi. Voi avrete volato o sarete stati nelle stazioni. Sapete, in stazione si va a comprare il giornale, e chi fuma compra le sigarette, aspetta, aspetta il treno. Oggi i ragazzi hanno l'iPod, o come si chiama, non ce l'ho mai avuto, quindi non me l'hanno mai regalato. E quindi non so nemmeno come si chiami, ma sono i tempi di attesa con supporti. Vi sentite in un aeroporto dove lì c'è la televisione, vi fanno vedere il Gran Premio, se c'è, se è domenica, e di là vi bevete il caffè e di là potete andare a fare shopping. Sapete quanta roba ho comprato in aeroporto? Proprio per ingannare l'attesa. E allora, perché un turista dopo 10 ore di viaggio, che sa che lì c'è una cosa bella da vedere, dove si può riposare e dove si può mangiare, non dovrebbe uscire? Deve avere un'attesa. Questa che noi offriamo. E è, guardate, a 700 metri dall'uscita dal casello dell'autostrada, quindi non costa neanche viaggio e fatica in più. Dico, questa è la chiave di lettura di una struttura culturale autosostenibile. Allora, senza supporti dà senso di isolamento, paura nei contatti, noia, ansia, voglia di fuga. Con supporti dà sensazione di appartenenza, tranquillità, relax dinamico. L'attesa svolge un'azione coronarica, diciamo così, tra azione, tempo, che determina consumo. Vi ripeto, il consumo era quello che io, i maglioncini che ho comprato negli aeroporti, perché rientravo dall'Africa e dovevo viaggiare leggero, e partivo da là che era estate, arrivavo qui che era inverno, tanto nel primo aeroporto mi compro un maglione e me lo metto. E gli aeroporti fanno i soldi. Arriviamo alla seconda e alla penultima, e questo era il concetto di edutainment. È l'educazione, è il nuovo concetto. Perché nelle scuole oggi si fanno più gite di una volta? Perché lentamente, e malamente alle volte, viene applicato il concetto di edutainment, cioè è l'educare intrattenendo. E in effetti c'è una verità in questo. Ricordiamoci, per chi ha studiato il greco, il nostro amico Umberto lo saprà, ricordiamoci che il scuola in greco significa anche, o significa tempo libero. Cioè, la scuola, i greci, che sono stati i capisaldi della cultura mondiale, la intendevano come tempo libero, come rilassatezza, come un momento dove apprendere, ma anche riposandosi. È solo con le più moderne concezioni, che risalgono tra l'altro agli ultimi 100-150 anni, che la scuola è diventata un qualcosa di costrittivo e di coercitivo. La stanno riscoprendo in numerosi convegni in Germania, soprattutto in Germania e in Inghilterra, dove hanno studiato dei luoghi di apprendimento orientati alla cosiddetta esperienza personale. Cioè, tu vai e impari. Ma in effetti, non è più facile dire a un bambino, andando in un centro commerciale, senti, prendi 4 mele, 3 pere, eccetera. Ti do i soldi, portami il resto. Però guarda che sia giusto. Non è matematica questa. Scusate, un bambino elementare. Nascono così dei nuovi modi di intendere la cultura, non l'arte, la cultura. I luoghi di apprendimento sono strutture per la formazione individuale e collettiva, che sono le scuole, ma possono essere anche i parchi giochi e ricreazione. Cioè, se io ho su il mio le mie leggende delle Dolomiti, il mio giardino botanico, l'omino vestito da austro-ungarico che mi spiega come funzionava un cannone avancarica o come si caricava un fucile, non pensate che questa sia fisica, botanica, eccetera, eccetera? Ci sono i luoghi del consumismo, i centri commerciali. Oggi i centri commerciali ti danno anche delle esperienze individuali che fanno parte della ginnastica, dell'equilibrio, eccetera, eccetera. I luoghi di apprendimento orientati all'esperienza personale possono essere dunque museo, centro studi, zoo, un parco a tema, un fan park, il Brandland. I Brandland sono il Thunwelt, ad esempio, no? Sono quelli orientati su di un marchio, il museo Swarovski. Un centro urbano di consumo e di intrattenimento. Ma sapete, anche la musica rock è cultura. E vedete che le esperienze si aprono su due fronti. Uno è l'apprendimento e l'altro è il consumo. Cioè in un parco gioco e ricreazione, io posso fare un'esperienza culturale, parlando un'altra lingua, con degli amici, ma vado anche a mangiarmi il gelato e quindi consumo anche. E questo è uno dei nodi per far funzionare una struttura culturale come un distretto industriale. Andiamo all'ultima, e è questa. La cultura si pone dunque come economia creativa. Io ho preso un esempio. Intorno a una struttura operano dei designer e una manifattura. Dobbiamo pur realizzare dei gadget, no? Non lo so, ho scritto in questa tesi un pensiero che riguarda ad esempio il pane del forte. La parola pane del forte, pan forte. Non lo so, se io faccio dei pezzi di panforte col marchio KKF, magari fatti dalla Clemens, che ne so, e li faccio uguali ai mattoni del forte, io ho un souvenir che è buono, che è da mangiare, perché la gente che va a visitare una cosa vuole portarsi via un ricordo, un'esperienza. Io ho 250 magliette, ogni posto dove vado mi compro una t-shirt. Kenya, Uganda, tutte queste cose. Sempre il gorilla, i lupi, e sono prodotti di consumo, arte e prodotti di nicchia. Chiaro, se lì si fa una mostra d'arte, questo ne abbiamo avuto già la riprova anche con Manifesta, qualche opera d'arte viene venduta, l'artista deve pur sopravvivere. Lo compra chi vuol crearsi un nuovo stile di vita, benessere e spiritualità. E oggi guardate che siamo passati dalla wellness society, si chiama società del benessere, siamo passati alla happiness society, gli economisti la chiamano così, la società della felicità. È per quello che si va, si straborda alle volte, no? E è per quello che non ce la facciamo neanche più con le spese, perché la gente non è più capace di misurare. Oggi fanno il mutuo in banca per andare in vacanza alle Maldive, lo sapete, vero? Non è una novità. Turismo, sì, poi vanno alla Caritas, certo. Turismo culturale, è comunque il turismo culturale, è una branca del turismo, e andando a quella dei luoghi dell'esperienza come i parchi gioco eccetera eccetera, il turismo culturale può anche essere rappresentato dalle migliaia e migliaia di studenti che ogni anno a maggio vanno in gita, e non solo a maggio. Paesaggio, giardini e gastronomia. Se io, sempre applicato al forte, facendo economia creativa, ci faccio anche un bel paesaggio, la gente si ferma. C'è qualcuno che mi ha detto ci vorrebbe una struttura ricettiva nelle immediate vicinanze. E io ho pensato alla Val di Fiemme, San Lugano, siete mai stati, vero? Avete visto che cosa hanno fatto nella vecchia stazione di San Lugano? Quindi io non invento niente, riporto solo best practice, si chiama, esperienze fatte da altri. A San Lugano ci hanno preso 10 vagoni, 5 vagoni vecchi della ferrovia della Val di Fiemme, li hanno messi su due binari, ci hanno creato dentro le cuccette, e i bambini che non ci stanno in quella struttura, vengono messi, e quelli vogliono andare nel vagone delle cuccette, non nel letto della casa, vogliono andare lì perché è più figo. Allora io dico, se sotto il forte ci mettiamo un binario, 5 carrozze dell'Oriente Express, e dentro ci mettiamo i letti dell'Oriente Express e magari un cretino che gli legge Agatha Christie, sai che forse magari ti fermi e paghi anche 200 euro per notte? Magari solo per fare un'esperienza. Ma guardate che questa si chiama economia creativa della cultura, non l'ho inventata io, non sono il saputello di paese che crede di aver inventato le cose, sono solo uno che le ha studiate. Grafica e web designer. Certo, io nel mio progetto avevo proposto una sinergia con l'università. Cioè, ci sono dei posti, soprattutto al cosiddetto Forte Alto, che offrono degli spazi magnifici, enormi, eccetera, per seminari, Noi abbiamo una scuola di grafica che è tra le migliori d'Europa, l'Accademia, cioè l'Università di Bolzano, ma abbiamo anche una facoltà di economia che è tra le migliori d'Europa, è l'unica in casa nostra in inglese, e sono tutti tedeschi, italiani, lituani, abbiamo anche delle ragazze afghane che la frequentano. Quindi voi immaginate se gli studenti della facoltà di economia, che vengono dalla Lituania, portateli su per un seminario di 15 giorni, anche spartano, se poi col passaparola, che rappresenta il 40-44% della pubblicità, ricordatevi che la pubblicità al di là del web è il passaparola. Sai, sono stato al museo di Trento, ho visto una mostra fighissima, domani ci vado anch'io. Così funzionano. Funzionano così le cose. E sono studi profondi, fatti da sociologi, da economisti, da psicologi, psichiatri. Bene, se si realizza questa sorta di ingranaggio che assomiglia a quello di un orologio, dove ci sono ruote piccole, ruote grandi, dove ci sono sponsor che hanno interesse a mettere la loro striscia lì, perché vedete, i campi di calcio funzionano così, per dire la HTC computer o cellulari ci mette la striscia a San Siro, perché? Perché ci sono 2000 televisioni che la filmano e paga per questo. E perché se ci sono 500.000 visitatori al Forte, questo non dovrebbe attirare uno sponsor? Bene, non me la tiro troppo lunga, sono le 8, sono 2 ore che parlo e adesso comincio a cedere. Credo di avervi dato un'idea. Vi ripeto, non voglio essere, non è mia intenzione essere il profeta, no? Quello che dice, guardate, dovete fare così. Dico solo che in base a quelle che sono le esperienze di grandi stati americani che hanno ridato una dignità agli indiani d'America creando i distretti culturali degli indiani d'America, e questi hanno smesso di bere e hanno cominciato a rincorrere di nuovo le loro tradizioni, le portano nel mondo, così come gli intillimani hanno portato il Cile e le problematiche del Cile con le loro canzoni, così oggi gli indiani d'America girano il mondo e hanno riacquisito una loro dignità di nazione perduta. Porto le esperienze fatte lì, perché le ho studiate solo semplicemente per questo, porto le esperienze che hanno fatto in Inghilterra, che hanno fatto in Francia, ma che hanno fatto anche città italiane, la stessa Milano, che ha costruito Bicocca. Guardate che un'università che si chiama Bicocca è la più grande stronzata del mondo, e guardate che è una delle migliori, questo nome a noi almeno evoca una Stamberga, è una delle università più moderne al mondo, e a volte l'antitesi funziona. Guardate, se non basta un nome, se non basta un marchio, il KKF della fortezza, se non basta un pane a forma di mattone, visto che lì ce ne sono milioni, se non basta una carrozza ferroviaria con 4 suonatori per attirare gente, perché oggi la gente ha voglia di girare, ha voglia di vedere, ha voglia di imparare senza fare fatica, come si imparava alla scuola dei greci. E stranamente questo chiude il cerchio del nostro ragionamento, perché il progettista Franz von Scholl, che venne decorato con la Leopoldina il giorno di inaugurazione della fortezza del 18 agosto 1838, e che stranamente il giorno dopo deve piangere la morte di sua moglie, e 2 giorni dopo muore anche lui di crepacuore, sì. Guardate che lui si ispirava ai greci, alla classicità. Noi abbiamo finito con la classicità. Vi ringrazio dell'attenzione, scusatemi della lungaggine.